cinema continua su Radio Onda Rossa. Infatti le interviste audio che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com andranno in onda in forma registrata, quindi non in diretta, il giovedì sempre dalle ore 14 alle 15, e l'indirizzo di posta elettronica resta lo stesso: visionari@ondarossa.info. Con Sara Zavarise di Zalab per parlare della doppia proiezione in programma giovedì 15 febbraio a Roma all'Apollo 11. Sara, ben ritrovata. Buongiorno, ciao a tutti. Parliamo dell'iniziativa nel complesso? Sì, allora, la proiezione di giovedì si inserisce all'interno di una formazione sul video partecipativo e documentario sociale che stiamo tenendo per una settimana all'Apollo 11 a Piazza Vittorio a Roma. Chi se ne occupa è Zalab, che è un'associazione culturale che produce documentari sociali con un approccio appunto partecipativo, in cui i protagonisti raccontano la loro storia, per dirla proprio breve e nel succo. E all'interno di questa formazione che stiamo facendo di una settimana abbiamo deciso di aprire al pubblico con due proiezioni, che saranno quelle appunto di giovedì alle 18:30. Il primo film è We Want You to Know di Ella Pugliese. Sì. Ed è un documentario molto interessante ambientato in Cambogia, che racconta la società cambogiana sotto l'oppressione dei Khmer, con un metodo appunto partecipativo, cioè ci sono diversi membri delle diverse comunità che raccontano, prendendo loro stessi la telecamera, la loro esperienza e la loro vita. Sì. Questo documentario dura un'ora e a seguire ci sarà un altro corto documentario, Resistenze, di un gruppo sardo di Porto Torres, che racconta la comunità dei pescatori a Porto Torres e le dinamiche di conflitti che si creano tra i pescatori e le nuove realtà industriali che stanno nascendo nella zona. Senti, la scelta di questi due lavori in quest'ambito nel quale è maturata l'iniziativa? Ma la scelta è stata prima di tutto perché sono due bei film. Sì. E quindi il voler dire che dei lavori realizzati all'inizio con una tecnica laboratoriale in cui persone e sguardi non accreditati si raccontano, possono arrivare a parlare anche a un largo pubblico. E poi per una vicinanza sicuramente di affinità e personale con gli autori stessi, insomma, che inviteremo e che poi dopo le proiezioni saranno aperti a un dibattito e raccontare la loro esperienza, essendo il video partecipativo un processo prima ancora della realizzazione del film, cioè un processo comunitario e sociale che si instaura all'interno della comunità appunto, e gli autori racconteranno insomma la loro esperienza. Senti, questo momento all'Apollo 11 si inserisce in un disegno più allargato che interessa anche altri momenti durante l'anno e anche altri luoghi d'Italia? Sì, assolutamente. Beh, c'è da dire che Zalab ha proprio sede qui all'Apollo 11 e quindi assieme al Cinema Apollo organizziamo sempre proiezioni di film prodotti da noi o distribuiti da noi, perché abbiamo anche una rete di distribuzione molto grossa che coinvolge insomma varie realtà e vari titoli. E attualmente ad esempio distribuiremo Ibi, che è un documentario su una storia di una donna africana che racconta la migrazione in tutta Italia e sicuramente anche qui. E, oltre a questo, poi c'è un progetto più ampio legato sempre al video partecipativo che coinvolge gli SPRAR d'Italia. Gli SPRAR sono luoghi dove avviene accoglienza di rifugiati richiedenti asilo. Abbiamo in 10 SPRAR da nord a sud Italia, in diversi comuni distribuiti in tutto il territorio italiano, dei laboratori video in cui ci sarà un racconto di accoglienza, di migrazione e di comunità all'interno con le persone che lavorano proprio nell'accoglienza nei vari luoghi. Quindi sono molte le iniziative che Sì. stiamo, insomma, mettendo in atto e poi i film che ne nascono sicuramente li proiettiamo di nuovo qui all'Apollo. Ci lasci tutti i riferimenti in rete per seguirvi? Sì, assolutamente. Allora, Zalab, il sito è www.zalab.org e lì troverete tutte le nostre informazioni, così come la pagina Facebook di Zalab. Ricordiamo allora l'appuntamento per giovedì 15 febbraio a partire dalle ore 18:30 con due lavori, We Want You to Know di Ella Pugliese e Resistenza e Resistenze, che è un documentario partecipato. Tutto questo all'Apollo 11 qui a Roma. Sara, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie Ciao. mille. Ciao. Ben ritrovato Alessandro Fabrizi. Ben ritrovato Federico Raboni. Allora, con te per parlare di The Body Electric, che è un documentario che testimonia la quarta edizione della Festa di Teatro Ecologico a Stromboli della scorsa estate 2017. Alessandro, allora, intanto partiamo dal festival, che è una tua creazione. Raccontaci un po' brevemente questa storia. Sì, allora sì, beh, è una mia creazione, in realtà originata insieme a Leonardo Gambardella e Tommaso Capodanno e poi portata avanti con Hussein Tahery, che è co-direttore artistico a tutti gli effetti della festa. Sì, dunque, io dal 2005 che organizzavo a Stromboli dei seminari Voce di metodo Linklater, e frequentando Stromboli e facendo queste esperienze performative nell'isola, senza microfoni e senza luce elettrica, un giorno ci è venuto voglia di aprire la festa ad altre persone che avessero voglia di presentarsi in questa modalità. E quindi nel 2013 abbiamo tentato con un'edizione zero, 5 giorni, invitando un po' di amici, attori, cantanti, giornalisti, appunto, a incontrare il pubblico senza l'illuminazione elettrica e senza l'amplificazione elettrica. Poi in questi anni la festa è andata avanti, ha trovato altri collaboratori, Valente, adesso c'è una squadra abbastanza permanente e ogni anno dedichiamo la festa a un anniversario, una persona, un evento, un tema, un'idea. E l'anno scorso, appunto il 2017, l'abbiamo dedicata a Henry David Thoreau perché ricorrevano i 200 anni della sua nascita e quindi anche a tutto il movimento trascendentalista americano. Di questa ultima edizione è stato realizzato un documentario che rappresenta un po' un punto d'unione tra il teatro e il cinema, perché ne è la testimonianza filmata in qualche modo. Sì, e con un sacco di uso di energia elettrica, ovviamente. Tutto per vederlo. Perché abbiamo girato comunque con la luce naturale e con la luce che c'era, insomma, non ci sono state luci elettriche aggiunte alle riprese, ma ormai con il digitale si può fare. Sì, abbiamo un gruppo di valenti operatori e fonici, capitanato dal co-regista del documentario, che è Enrico Parenti, sono stati con noi a Stromboli e hanno ripreso quello che succedeva. E poi, insieme a Barbara Galli, la montatrice, io ho seguito il montaggio del film e siamo arrivati a questo concentrato di 28 minuti per raccontare in realtà quello che è accaduto in 9 giorni. Sì. Senti, come ecco, rispetto alle giornate del festival, della festa, il documentario, cosa cattura e in che modo? È stato molto difficile montarlo quest'anno, montare un racconto di 28 minuti, perché da una parte, come dire, il mio desiderio più grande era quello di raccontare l'atmosfera della festa, che ha, credo, una particolarità per cui gli artisti si scambiano, gli artisti stanno a Stromboli durante quasi tutto il festival, per cui si vanno a vedere le reciproche performance. Poi quest'anno abbiamo inaugurato un incontro la mattina al bar, che abbiamo chiamato Chiacchiere da Bar, in cui si parlava anche con il pubblico e tra artisti di quello che era successo il giorno prima. Per cui, ecco, il mio desiderio principale era quello di raccontare un po' l'atmosfera della festa. Dopodiché, non era semplicissimo dare anche delle informazioni su quello che era il contenuto quest'anno della festa, perché per quanto Thoreau sia un personaggio di culto per alcuni, non è popolare come Shakespeare, per dire, l'anno prima, per cui non c'era bisogno di spiegare chi era Shakespeare. In questo caso volevamo anche un pochino permettere a tutti di avere qualche coordinata per capire stavamo parlando, di che cosa stavamo parlando. E naturalmente, come sai, come sappiamo tutti, si deve sempre rifare la tara su quello che si vede, perché quello che magari è accaduto è stato molto intenso, molto bello, molto comunicativo ed entusiasmante, non è detto che nelle riprese comunichi la stessa energia, la stessa magia. Quindi alla fine il materiale che si sceglie anche in base a come funziona in quanto appunto materiale cinematografico, materiale fisico. E per me questo è stato particolarmente difficile, perché essendo stato lì, essendo appunto uno dei papà della festa, volevo metterci tutto. Certo, certo. Avrei voluto metterci tutto. Senti, il 15 febbraio su Sky Arte andrà in onda il documentario. Si tratta di una prima, e poi volevo chiederti anche se è previsto comunque o un calendario di proiezioni o un'uscita in sala. Guarda, al momento non lo so, perché per ora Sky ha un'esclusiva che chiede comunque per un certo periodo di tempo, e tra l'altro appunto il 15 c'è la prima proiezione televisiva e poi sono previste, credo, altre tre repliche. Dopodiché a me piacerebbe fare delle proiezioni, farlo vedere, magari in combinazione con quello dell'anno scorso, però al momento non abbiamo programmato niente. Ok. Senti, in ogni caso ci puoi lasciare dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora, il documentario andrà in onda sui canali 120 e 400 di Sky Arte. Sì. E se qualcuno fosse curioso e interessato a sapere un po' di più della festa di teatro ecologico di cui il documentario parla, abbiamo un sito che si chiama Festa di Teatro Ecologico, quindi è facile, e anche una pagina Facebook che sempre si chiama Festa di Teatro Ecologico, dove ci sono immagini di questa e di altre edizioni e anche sì, immagini anche video in movimento di altre edizioni e di questa. Benissimo. Allora Alessandro, la scadenza l'abbiamo data. Un abbraccio e ci si sente presto. A prestissimo, grazie mille. Okay. Presto, buon divertimento. Con Sergio Ponzio del Cine Club de Tour per parlare della programmazione di questi giorni. Sergio, ben ritrovato. Grazie Federico. Dici un po' cosa ci aspetta. Allora, abbiamo delle novità questo fine settimana. Da venerdì cominciamo a programmare questo film, speriamo che insomma ci porterà anche fortuna. È un film distribuito dalla Wanted, un film che abbiamo recuperato dal loro prezioso catalogo, si chiama Un Tango Mass, Si tratta di un docufilm, la produzione esecutiva di, a cura di Wim Wenders. Il film è una produzione a metà tra Europa, arte e Argentina. E il titolo italiano Un ultimo tango, German Krall il regista. È un film che racconta la storia d'amore e la storia artistica di una delle più famose coppie del tango argentino, due grandi ballerini molto famosi, diciamo, in patria, e racconta la storia della loro passione per il tango, che inizia quando loro sono giovanissimi, 14 anni lei, 17 lui, si conoscono naturalmente in una milonga e ballano insieme, balleranno insieme per quasi 50 anni. Quindi il racconto della loro storia travagliata, perché poi sarà punteggiata da separazioni violente, quindi una storia di amore e odio, però sempre, diciamo, intorno alle sale da ballo e intorno a questa passione condivisa. E, interessante la struttura narrativa, perché il racconto viene fatto dai due protagonisti, che adesso naturalmente sono anziani ma ancora ballano, e viene fatta invece a un gruppo di giovani ballerini e coreografi di Buenos Aires, di una scuola di Buenos Aires di tango, che quindi in qualche modo reinterpretano la loro storia. Quindi mentre questa viene raccontata vengono messe in atto queste coreografie che reinterpretano la loro narrazione. Un film con una fotografia straordinaria e dei numeri, diciamo, coreografici veramente molto molto belli. Quindi per tutti gli appassionati di tango, questo accadrà venerdì 16 alle 21 al The Tour. Andando avanti rapidamente nel fine settimana, arriviamo al, potrei dire, consueto appuntamento con il nostro amato Alejandro Jodorowsky. In questo caso è un caso perché il giorno del suo compleanno, e nel giorno del suo compleanno riproponiamo la maratona dei suoi due primi due film, diciamo le prime due parti della sua autobiografia, che speriamo riuscirà a completare presto con il terzo capitolo. Quindi proporremo alle 18 La danza della realtà e alle 21 Poesia senza fine. Sono due capolavori di surrealismo, definirei maturo, film con una grandissima densità poetica, con tanti livelli di lettura, che quindi vanno visti e secondo me rivisti più volte. Arriviamo a domenica continua questo nuovo ciclo di Mondo Visioni, documentari di Internazionale, la rivista Internazionale, che dopo aver i bellissimi documentari sulla geopolitica, sui diritti umani, su questioni, diciamo, internazionali e sociali, nell'ambito del suo festival a Ferrara, fa iniziare un tour in Italia, dove questi documentari poi vengono riproposti in varie location. A Roma solitamente è il Palazzo delle Esposizioni che li proietta a ottobre-novembre, poi da 3 anni a questa parte, poi il Cinema de Tour li ripropone in esclusiva a Roma, diciamo più o meno in questo periodo. E così anche quest'anno, siamo arrivati alla seconda domenica di Mondovisioni. Sono due documentari che in qualche modo accomunati come potrei definirla, da un aspetto, diciamo, politico-elettorale, cioè siamo alla vigilia di un momento elettorale in Italia, e questi due film, uno finlandese e uno indiano, prendono dei punti, diciamo, molto controversi del dibattito politico e li elaborano, diciamo, in modi anche qui molto molto diversi. Il primo è il film finlandese Boiling Point, due personaggi che si conoscono e si incontrano tutte le volte in una sauna, classico, diciamo, di discussione, di diletto e di relax per i finlandesi, e si confrontano sul tema dell'immigrazione e delle nuove destre. Uno dei due personaggi è uno storico, un esperto proprio di di movimenti xenofobi, di fascismo in Finlandia e in genere in Europa. L'altro personaggio invece è un imprenditore che è preoccupato proprio per la crescita dell'immigrazione, per l'estremismo islamico e in genere per quello che lui definisce le politiche di sinistra. E quindi c'è questo confronto molto interessante tra queste due posizioni. Nel secondo film, invece, Insignificant Man, un film indiano, si racconta la vicenda politica e umana di un funzionario di un governo locale di Nuova Delhi, che diventa il leader di un movimento di protesta, che poi lui battezza come Partito dell'Uomo Comune, che è una sorta di risposta all'indignazione, diciamo, popolare contro la classe politica, contro la corruzione, ed è un po', diciamo, quindi un riverbero di quello che sta succedendo che succede in Europa, negli di questo movimento definito a volte populista contro le classi dirigenti. Qui prende questa forma particolare e in qualche modo la sua vicenda e le caratteristiche del suo movimento possono ricordare quello del nostro Movimento 5 Stelle qui in Italia. Quindi è interessante vedere parallelismi e sicuramente differenze culturali tra questi due approcci. Direi che per questo fine settimana era, diciamo, la parte importante che mi premeva dire. Per tutto il resto rimando come sempre al sito del Detour, www.cinedetour.it, Facebook e i vari social per avere poi tutti gli aggiornamenti. Sergio, un abbraccio e alla prossima, a presto. Grazie mille Federico, a presto. Ciao. Ciao ciao. Con Jesús Garcés Lambert per parlare del suo film Caravaggio, L'anima e il sangue, che sarà in uscita in sala dal 19 al 21 di febbraio. Jesús, intanto benvenuto. Grazie, grazie. Piacere. Grazie di avermi invitato. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? E certo, Caravaggio è un film d'arte ma molto particolare, perché non parla solo della vita dell'artista, ma ti fa vivere un'esperienza caravaggesca. Ti fa entrare nel mondo di Caravaggio, ti fa entrare nella testa di Caravaggio, nel cuore di Caravaggio, nella pancia di Caravaggio. Quindi è un film che abbiamo girato in 8K, che è la massima risoluzione attualmente sul mercato. Cioè, i film di supereroi vengono girati con quella tecnologia, Sì, parliamoci chiaro. sì. Allora, è un film dove con questa grandissima, altissima risoluzione abbiamo ripreso questi quadri, quindi riesce a capire ogni singola pennellata. Ma non solo, perché poi noi abbiamo ricreato quello che sarebbe una specie di io di Caravaggio. Immagina come se Caravaggio andasse dallo psicanalista e parlasse di se stesso, no? Parlasse del suo amore per le donne, della sua paura per la morte, una sua riflessione sulla libertà. E allora attraverso questo un po' l'idea era quella di far entrare lo spettatore dentro all'universo di Caravaggio. La voce di questo io caravaggesco è un rocker molto conosciuto che si chiama Manuel Agnelli, che sicuramente tutti voi conoscerete, no? Sì. E che rappresenta come attore, diciamo, il personaggio che interpreta questo io caravaggesco non è un attore, ma è Emanuele, un ragazzo di Scampia con un passato difficile che ha portato proprio nel nostro set un'intensità incredibile, un'intensità come sono quelle dei personaggi di Caravaggio, che Caravaggio immortala nei suoi quadri. Sì. Senti, Jesus, com'è nato tutto il progetto? Il progetto nasce in una forma molto bella perché Cossetta Lagani, la direttrice creativa del progetto Sky, che è quella che ha inventato un genere veramente, perché questi grandi film d'arte con altissima tecnologia per il cinema non venivano mai fatti, non venivano fatti. E lei si è inventato questo genere di fare film d'arte per il cinema con altissima tecnologia. Allora noi avevamo già fatto un lavoro, io stavo in Argentina girando un altro film, stavo chiudendo il film in Argentina, io sono messicano, però vabbè, stavo in Argentina girando questo film, e lei mi chiama e mi dice: senti, vorresti fare un film con me? Io le dico: certo, certo. E detto, dove stai? Io in Argentina, perché erano tipo le 4 del mattino, ho detto: sì, certo. E lei mi dice: ti piace Caravaggio? E io: no, beh, Caravaggio, sono cresciuto con Caravaggio. Ho detto: sì, certo. Quando iniziamo? Ho detto: subito. Io ho chiuso il film, ho chiuso ovviamente il film, e poi son tornato in Italia e abbiamo iniziato a fare questo film. Quindi è già nato con un'energia quasi caravaggesca, ma molto intensa. Sì, un'energia sì. Di grande passione, che è quello che mi è piaciuto molto. Non la passione che ti dico, parte dalla direzione creativa, da Cosetta Lagagna, e poi la regia, la sceneggiatura, tutta un gruppo di lavoro che alla fine... Queste proiezioni che stiamo facendo, che vedo il gruppo di lavoro che ha lavorato per questo film, e tutti finisce il film e tutti con uno sguardo incantato, no? Di dire: ok, che bel lavoro che abbiamo fatto. Senti, Jesus, cosa ami dell'opera di Caravaggio? Io amo di Caravaggio che lui in realtà credo che sia un documentarista. E lui è un regista che mette in scena, in contemporanea, ti racconta delle storie incredibili. Ogni suo quadro ti racconta una storia vera, dove te sì, vedi una Madonna, ma non solo vedi una Madonna, ma vedi una madre, vedi una donna sensuale che è anche madre, vedi dei pellegrini sudici che vanno a pregare la Madonna con grande speranza, vedi l'odio, lo vivi l'odio, vedi l'amore. Mi piace molto queste scene che ti raccontano quell'epoca lì, ma anche la sensazione e l'emozione dei personaggi che lui ha installato. Questo è quello che a me come regista e come uomo mi sicuramente mi ha cambiato la vita Caravaggio in questo senso. Vedere che tanti anni fa, centinaia di anni, cioè, tanti anni fa, un pittore ha ritratto una cosa che io sento ancora. Questo mi ha chiamato l'attenzione. Senti, per filmare anche la sua vita, come vi siete e dove vi siete documentati? Guarda, questo sembra una follia, però è vero, cioè, di Caravaggio, di documenti dell'epoca di Caravaggio che parlino di lui ce ne sono pochissimi. Sì. I primi biografi arrivano qualche anno dopo, e il suo più grande biografo, immagina, era il suo più grande nemico. Cioè, immagina, quello che ha scritto su di lui era il suo nemico, vabbè. Allora, noi abbiamo ovviamente la caratteristica di questi film è che hanno una base storica e scientifica incredibile, no? Cioè, nel senso, sono totalmente, tutto quello che noi diciamo nel film è documentato. Allora, siamo andati a cercare questi documenti e non abbiamo trovato documenti quasi. E indovina quali sono i documenti che abbiamo trovato che parlavano della vita di Caravaggio? Gli atti giudiziari. Perché lui veniva fermato perché portava la spada illegalmente, o perché aveva aggredito qualcuno, o perché aveva spaccato i vetri della sua padrona di casa, no? Che le aveva requisito tutto perché non pagava l'affitto. Allora, entrando in questi luoghi, immagina questi luoghi polverosi, no? con degli atti giudiziari del 1400, 500, 600, no? Sì. Che senti la storia che ti crolla adesso, incontri e trovi questi documenti che ti parlano che un tale certo Medici, Michelangelo Medici, detto Caravaggio, è stato fermato per aggressione. E allora, con questi documenti noi abbiamo tracciato esattamente dove stesse in quel momento lì. Okay. Abbiamo tracciato un po' anche la sua teoria sulla pittura, perché in una deposizione in pubblico, in un processo, lui parla e dice che cosa è per lei la pittura. E lui dice: per me un grande pittore è quello che sa ritrarre bene le cose in forma naturale. E immagina, questo è un processo, è incredibile, no? E con questi documenti, giudiziari, noi siamo riusciti a tracciare anche un po' la sua personalità. È incredibile, no? Che uno dei più grandi pittori della storia mondiale debba essere tracciato dagli atti giudiziari, ma è così. Senti, per 3 giorni in sala, quante sale saranno? Guarda, adesso è una grandissima sorpresa, perché abbiamo il record di numero di sale per un film d'arte. Adesso abbiamo 350 sale e ogni giorno si aggiungono altre sale, quindi speriamo arrivino a più di 350 in tutta Italia, in tutte le grandi città e non solo nelle città, quindi speriamo che questa quantità di sale possano portare Caravaggio un po' in giro per tutta Italia, e non solo Italia, perché poi ci saranno anche 3.000 sale in tutto il mondo che lo proietteranno. Allora, ricordiamo Caravaggio, l'anima e il sangue di Jesús Garcés Lambert, dal 19 al 21 febbraio in sala. Jesús, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio. Ciao. Ciao. È con noi la regista Antonietta De Lillo per parlare dell'iniziativa di una serie di artisti romani per un libero cinema a Piazza Vittorio. Questa è la lettera aperta degli artisti del Rione Esquilino a varie istituzioni, non solo locali. Antonietta, intanto ben ritrovata. Salve. Allora, ci racconti un po' com'è nata quest'idea? Beh, è nato che sicuramente, voglio dire, io personalmente mi sono trasferita all'Esquilino nel 90, quindi sono un bel po' di anni che sto qui. Sicuramente è un quartiere ricco di contraddizioni, ma anche di specialità. È un posto dove convivono veramente tante realtà, e poi c'è una concentrazione molto molto alta, diciamo, di registi, critici, scrittori, insomma, di, tra virgolette, così definirci artisti, che ci incontriamo, che abbiamo dei luoghi di ritrovo. È sicuramente l'Apollo 11, che è questa sala gloriosa dove io presentai Il resto di niente, è un luogo che in qualche modo ci unisce, ci fa anche passare delle belle serate, e ci propone anche dei film che altrimenti non vedremo in nessun altro quartiere di Roma. Insomma, quindi nascendo un po' con quest'idea di dire si avvicina l'estate, e l'anno scorso veramente l'offerta a Piazza Vittorio è stata un'offerta, io sono stata un paio di volte, ma si vedeva il film, non era un luogo di ritrovo o un luogo dove si andava volentieri, perlomeno parlo per me. E quindi devo dire, l'idea di Agostino e Ferrente, di Andrea Segre, era proprio quella, e ha chiamato a raccolta gli amici e i frequentatori del quartiere, di dire perché non la gestiamo noi, perché non ci prendiamo uno spazio per, e forse anche, credo, in occasione di una denuncia, non so se ufficiale o ufficiosa, non ho capito bene, ma comunque al di là della burocrazia. Intorno a questa idea di creare uno spazio, uno schermo, un'arena estiva e gestita da noi, che può essere a servizio di tutto il quartiere, devo dire con entusiasmo ha detto sì, facciamo una lettera aperta, capiamo anche chi ci segue, e quindi abbiamo aperto un blog per poter sottoscrivere soprattutto altri artisti, ma anche tutti gli abitanti. E devo dire che stiamo avendo un riscontro, nel senso che non siamo solo noi a sentire questa esigenza. E quindi è partita questa idea di in qualche modo dialogare o con le istituzioni, crearci degli spazi, insomma, in qualche modo capire come la prossima estate si possa creare un luogo di condivisione a partire proprio da una programmazione, da un'arena estiva. Quanti artisti alla fine stanno, o almeno in questo momento, rispondendo anche a questa chiamata, stanno lavorando insieme? Io penso che, devo dire, ieri e oggi sono stata un po' impegnata, non ho visto le mail, e credo che stanno rispondendo molti, ci sono tante adesioni, diciamo, ci sono adesioni anche da lontano, la Gioia che dice io sono trasferita a Torino, ma in realtà il mio luogo, semmai ne esiste uno, è sicuramente Piazza Vittorio, ci sta la Nicchiarelli, ci sta Betta Lodoli, ci sta Agostino, ci sta Andrea Segre, ci stanno, insomma, credo che hanno aderito in questo momento più di 200-250 firme, che sono partite Sì. pochi giorni fa. E penso che al di là di tutto abbiamo anche un po' il DNA per farlo. Insomma, se penso a Andrea Segre, una persona che oltre a essere un bravissimo artista è anche una persona che aggrega, cioè partecipazione, sensibilità anche per diciamo l'altro, e sicuramente questo è un luogo dove ci sono tante razze diverse che vivono insieme. È un peccato non farlo diventare un vero e proprio laboratorio culturale. Sì. Ascolta, Antonietta, avete... Senti, av... spontaneo nel senso che Sì. lo è. Posso dire che abbiamo una delle più belle piazze di Roma, che sono anche quello un luogo già di accoglienza, perché riesce ad avere due schermi, insomma riesce a far convivere molte cose. L'importante è riempirlo e riempirlo di azioni di noi cittadini che ci abitiamo, insomma. Sì. Antonietta, avete già in linea di massima individuato un periodo ed una durata per una, arena estiva? Allora, la durata no, abbiamo tra di noi fatto parecchie ipotesi, piccole, grandi, e siamo pronti a qualsiasi tipo di dialogo, cioè di un dialogo con chi la gestiva e capire se si trova la strada per convivere tutti quanti, ma per offrire comunque un luogo di ritrovo che sia rappresentativo del nostro quartiere, o anche, cioè, la cosa è nata 4-5 giorni fa, ma ti dico che sta andando, cioè ci vediamo, ci sentiamo e ora aspettiamo anche una risposta, aspettiamo anche di capire se diciamo, le istituzioni o chi può accogliere questa nostra offerta, altrimenti comunque io ho la sensazione che noi la faremo, ecco. Sono abbastanza convinta che riusciremo a creare quest'anno uno spazio dove le persone del quartiere si riconoscono e dove faremo un'offerta variegata, perché poi non è che dobbiamo fare un'offerta di cinema di documentario, di cinema di finzione, però che corrisponda comunque a delle esigenze, diciamo, che non seguono solo il proseguimento della prima visione, ma che hanno un percorso, che hanno anche la capacità di far incontrare degli artisti, di fare degli eventi. Insomma, da questo punto di vista, l'Apollo 11 ha dimostrato di essere una sala piccola, resistente e che forse è una delle poche sale che aumentando il suo pubblico e diventa un punto di aggregazione per il quartiere. Ecco, l'idea è di partire da quel laboratorio lì e farlo uscire fuori da un ambiente chiuso e portarlo d'estate in piazza. Ce la faremo, come, quando, che periodo? Per ora è presto. Certo è che siamo abbastanza, diciamo così, gasati tra di noi, perché abbiamo lanciato questa iniziativa e anche tra di noi sappiamo che è una buona cosa e che quindi va perseverata, abbiamo voglia di lavorarci. Bene. Antonietta, in chiusura, vi siete già dati delle scadenze pubbliche e poi se ci lasci anche dei riferimenti internet per saperne di più. Sì, abbiamo detto che in realtà entro il 15 marzo vorremmo sicuramente capire se abbiamo delle risposte istituzionali o meno. Nel frattempo lavoriamo a piani A, piani B e piani C. Per quanto riguarda l'idea di sottoscrivere, insomma, di mostrare gradimento di lavorare insieme a noi per pensare a un'estate all'esquilino fatta da tutti noi cittadini, c'è il blog che si chiama, però questo lo dici tu perché io mi sono, non mi ricordo Va come si bene, non ti chiama, preoccupare. esatto, che si può sottoscrivere la lettera aperta. Benissimo. Antonietta, allora un Parte abbraccio. del blog lo dici tu, eh? Sì, va benissimo, lo metterò come indicazione. Un abbraccio e ci sentiamo poi per gli sviluppi. D'accordo, buone cose e grazie a te per l'attenzione. Ciao. Ciao. Con Valerio Carocci del Piccolo Cinema America per parlare di quanto sta succedendo rispetto alla loro arena estiva. Allora, Valerio, intanto ben ritrovato. Ciao, buongiorno. buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente facciamo una breve sintesi della vostra realtà e del vostro rapporto con Piazza San Cosimato. Allora, Piazza San Cosimato nasce 4 anni fa dopo lo sgombero dal Cinema America, un'arena ingresso gratuito durata 4 anni, 200.000 spettatori, ospiti del calibro di Bertolucci, Asghar Farhadi, Verdone, Sorrentino, un premio per i documentaristi indipendenti Under 40, una piazza viva partecipata basata sulle relazioni e che guarda non al guadagno ma all'arricchimento sociale di un territorio. Sì. Senti, cosa è successo poi in questi giorni? Questi giorni l'amministrazione comunale, guida 5 Stelle, ha deciso di fare un bando per l'esclusiva concessione di occupazione di suolo pubblico della piazza. Noi, come tutti sanno, abbiamo anche aderito al bando per la sala Troisi, vincendo e regolarizzando la sala, ma non troviamo in nessun modo, né politicamente né a livello amministrativo, necessaria l'inserimento di un bando per le concessioni di occupazione di suolo pubblico. Pertanto, non credo che ci sia la possibilità di crescita culturale per una città se tutto, anche l'occupazione di suolo pubblico per gli eventi culturali non profit e ingresso gratuito, devono passare per un bando. A questo punto noi abbiamo sbattuto la porta, in qualche modo abbiamo detto che questa arena non la porteremo avanti, lasceremo San Cosimato a chi a 30 giorni dalle elezioni ha deciso di sottrarcela, e abbiamo proposto un nuovo progetto che si chiama Il Cinema in Piazza, con terreno, Sapienza, Ostia e Valle Aurelia, per portare il cinema gratis nelle periferie, 2.700 sedute, 185 notti di proiezioni e ben 3 maxi schermi. Allora, per quanto riguarda la conferenza stampa che avete tenuto ieri, avete resa nota anche una clausola che in qualche modo censura la critica all'amministrazione rispetto ai bandi. Sì, esattamente, c'è una clausola nel bando dell'estate romana che per il Marino, ma che Luca Bergamo ha pensato bene di non togliere, cioè che riguarda una censura. Tutti i beneficiari del bando non possono criticare l'operato dell'amministrazione comunale né dei suoi dipendenti. Questa è una delle tante motivazioni, perché poi, come ho detto, non è la motivazione, però diciamo è il fiore all'occhiello di poi quello che è il rapporto tra ormai le istituzioni in realtà spontanee, culturali, che comunque anche nella legalità, come nel nostro caso, scelgono di operare, e la dimostrazione che si sta dando è quella che comunque anche laddove si sceglie la strada della legalità non c'è un reale margine, perché poi l'amministrazione è dovuta arrivare ad utilizzare parole molto diffamatorie come quella dell'esistenza di denunce che su Piazza San Cosimato non esistono. Quindi è debole la posizione del comune, è debole la posizione di Luca Bergamo, è vergognoso anche quello che è stato l'intervento, secondo noi, oggi di Tommaso Montanari sulla questione, che prima si fa da paladino delle realtà sociali, negando i bandi come strumento utile, e poi a quanto pare, tirato per la giacchetta, interviene dopo che ci hanno levato la piazza, chiedendoci di ritornare e di fare il bando. Cose fuori dal mondo. Mi sembra evidente che questa città si stia perdendo e che Bergamo non è adatto, è del tutto inadatto al ruolo che sta ricoprendo, sia come assessore alla cultura, alla crescita culturale, che come vice sindaco. Valerio, ci illustri un po', ci anticipi un po' come sarà questa arena estiva in più tappe? Saranno 3 arene, saranno vive anche con maratone notturne, quindi come facevano i bambini dalla notte all'alba. Tutto a ingresso gratuito, a Cervelletta non ci saranno sedute, ma bisognerà partecipare con cuscini, tappeti, tovaglie e quant'altro. A Monteciocci le sedute verranno rimosse mattina e sera, e mentre a Porto Turistico di Roma, un progetto in collaborazione con l'amministratore giudiziario Donato Pezzuto, ci saranno 1.500 sedute e l'arena sarà allestita con uno schermo da 12 metri. Senti, anche rispetto alle proposte che vi sono arrivate da fuori città, come mai questa scelta, cittadina in questi luoghi? Ma l'idea è quella di non abbandonare mai la città, questo vorremmo proseguire su questa strada. Comunque siamo romani, siamo cresciuti a Roma, la amiamo, la conosciamo e non vedo perché noi dovremmo andare via. Quello che passano sono le amministrazioni, non i cittadini. Quindi abbiamo scelto i nostri territori. Io abito a Coglianiene, quindi il Parco della Cervelletta, Alessio, Sergio, Lorenzo sono di Valle Aurelia, quindi il Monte Ciocci, e abbiamo tanti ragazzi di Roma Sud che hanno partecipato, hanno aderito, e quindi anche in questo momento ci sembrava politicamente importante decidere di portare quello che era il nostro lavoro, il bagaglio culturale, politico e sociale di San Cosimato a beneficio della periferia di Roma. Allora, seguiremo gli sviluppi di questa vicenda. Chiaramente ci sentiremo anche a ridosso dell'inizio delle attività per quest'estate. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Twitter e Instagram, Piccola America, mentre per Facebook i ragazzi del Cinema America. Un abbraccio in bocca al lupo. Ciao, grazie. Il cinema continua su Radio Onda Rossa. Infatti, le interviste audio che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com andranno in onda in forma registrata, quindi non in diretta, il giovedì, sempre dalle ore 14 alle 15, e l'indirizzo di posta elettronica resta lo stesso, visionari@ondarossa.info.